Ciao, sono Anonimo. Ho fatto un'altra canzone. L'ho fatta col computer. Ci ho messo la cassa. Il basso. Basta, basta. Fatto basta, un altro basta, disco. E poi il passivo. E ancora la cassa. Fatto un altro disco. Basta, fatto un altro disco. Sono veramente forte. Porca. Figa se sono bravo, cazzo. Perché mi sale sempre la pasta quando faccio ste robe? Porca miseria. Ah!